bar. Quattro morti giù in Sardegna, nelle mani del potere, e giù nel mio paese arrivò un'epidemia. Settembre 04, vicino casa mia, voleva lavorare senza più vergogna. Fu accolto con il piombo dagli sbirri dei torloni, e quando il sangue tocca terra, chi non è un guerriero faccia a faccia tra le barche conta solo il cimitero. Un uomo ha visto tutto e non ricorda niente, quattro metri sotto terra, sotto i piedi della gente indifferente. Sui platani le reti ad asciugare al sole sembravano inferriate o sbarre di prigione. Un solo colpo in canna e un dito di condanna per chi non vuole stare al mondo come un animale. E giù nel mio paese arrivò un'epidemia. Settembre 04, vicino casa mia, voleva lavorare senza più vergogna. Fu accolto con il ferro dagli sbirri dei torloni, e quando il sangue tocca terra, chi non è un guerriero faccia a faccia tra le barche conta solo il cimitero. Un uomo ha visto tutto e il suo ricordo sfugge nella nebbia. Attentamente, c'è un'orsa che divora la testa di un serpente. Quando il sangue tocca terra, chi non è un guerriero faccia a faccia tra le barche conta solo un cimitero. Un uomo ha visto tutto e non ricorda niente. Quattro metri sotto terra, sotto i piedi della gente indifferente. Sottoterra, sotto i piedi della gente indifferente. Grazie mille.